and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Arrivederci weekend. Ma non weekend, è venerdì. Tu fai sempre così, che salti il venerdì. Il venerdì esiste, un giorno come gli altri. Bisogna lavorare 10 minuti. Sì. Esattamente. Tito, come il lunedì. Vieni qua. Ecco, Tito. Allora, l'asilo qua c'è di nuovo fermento intorno alla bambina ministra Gelmini. Ah, pensavo intorno alla spazzatura. No, ma quello ormai. La bambina Gelmini, sempre lei, perché ha stretto i cordoni della borsa, anzi delle borse di studio. Vabbè, capito? Ma scusa, lei fa quello che gli dice il bambino ministro Tremonti. Lui dice taglia. Lei taglia, sì, dai, però vabbè, tagliare, cioè se tu tagli del 90% i soldi per le borse di studio vuol dire che le stai sopprimendo. Quindi bambini che siete ancora all'università, ahimè, ai voi, da quest'anno dovrete fare a meno persino degli spiccioli che vi arrivavano per tamponare un po' le spese. Vabbè, e adesso ce l'hanno tutti con la bambina ministra Gelmini. È per forza, lei l'hanno mandata allo sbaraglio a fare i tagli. Eh sì, poi cadrà il governo, di lei ci si dimenticherà. Pensare che lei ci tiene alla scuola pubblica. Come no? Bambina ministra Gelmini, sa che ci sono dei dubbi sul fatto che lei difenda la scuola pubblica? Io ho visto in alcuni cortei degli slogan, giù le mani dalla scuola pubblica. Ecco, giù le mani dalla scuola pubblica lo diciamo noi. Ecco, brava bambina Gelmini, così mi piace. Sì, vabbè, ti piace. Chiedi al bambino Sgarbi e senti lui cosa ti dice. No, vabbè, ma lui si sa che preferirebbe un altro posto della bambina Gelmini, eh? Chiediglielo. Ma no, dai, no, non glielo chiedo. Chiediglielo. Bambino Sgarbi, le va bene la bambina Gelmini al Ministero della Pubblica Istruzione? No, Gelmini non è un ministro dell'istruzione, è un buon ministro della funzione pubblica. Sai chi è Gelmini? Sì, sì. Lo conosci o no? Sai chi è? Sì, sì, è un intellettuale di centrodestra, giusto, K? Ma che ne so io? Geminello Alvi è un intellettuale di centrodestra, intelligentissimo. Appunto, sì, sì. E sarebbe un ottimo ministro. Ma, vabbè. E tu sei un pirla, ecco. Questo sei. Vabbè, io alla fine dal bambino Sgarmi mi becco sempre del pirla. Sei sempre lì che lo stuzzichi, lui è come le vespe, eh? Non come Vespa. Cosima esce, sale sulla sua macchina. Mariangela dice, io vado ad accompagnare la mia sorellina piccola che era salita con lei e scompare anche lei. Sabrina sale sulla macchina della madre e va via. E ora, bambini, ricreazione! Allora, Gildo, i 50 euro! $50! No, hai capito bene, i 50 euro che mi devi! Mi devi! No, uè, adesso basta questa storia, tu fai sempre lo gnorri perché vuoi fare il furbo, eh? È comodo così! Comodo! Bambino Alberto, cosa fai? Parli di nuovo da solo? Ma no, è col suo amico Gildo, no? Appunto. Drago, ma sei cieco? Ah, già, l'amico immaginario, è vero. No, sì. Ma quale immaginario? Ah, scusa, è qui? Sì. E mi sta anche fregando 50 euro? 50 euro! Però scusate, ragazzi, va bene avere fantasie, eccetera, eccetera. Però parlare da soli è un indice preoccupante di instabilità mentale. Come no? Lo so, eh. Ah, lo sai? Solo i matti parlano da soli, eh? Vero, Gildo? Vero, Gildo! Appunto! Ma io non sto parlando da solo! Vero, Gildo? Vero, Gildo! Drago, sei disinformato poi comunque, okay. Perché parlare da soli non è per niente una cosa da matti, anzi fa bene. Vabbè, adesso io scommetto che tiri fuori uno studio di qualche università sconosciuta, fasulla del Minnesota. No, a parte che è di Toronto, quindi allora Canada. Cambia tutto, sì. Il Canada. È canadien. Mio papà sembra matto, invece sta solo parlando al cellulare. Infatti adesso i matti fanno finta di parlare al cellulare, no, con l'auricolare. Ma dove? Anche tu, Plastic Bertrand, potresti fare così, fai finta di parlare con l'auricolare, quindi quando proprio non puoi fare a meno di parlare da solo, che senti questo desiderio irrefrenabile. Plastic Bertrand! Cosa vuoi dire con Plastic Bertrand? Alberto Plastic Bertrand. No, tu vuoi alludere. Ma alludo a cosa? Un finto cantante. Sì, è vero, l'altro. C'è stata tutta una polemica. Comunque lui vuole alludere che tu parli da solo. Parli da solo? No, ma io non parlo mica da solo, Io parlo con Gildo. Vero, Gildo? Vero, Gildo? Comunque a Toronto hanno dimostrato con dei test di cui non si capisce in realtà niente che se uno rimugina tra sé e sé mentre lavora si concentra di più e ha un rendimento maggiore di chi invece non parla da solo. Hai capito? Scusa, ma in che senso? Cioè, come si fa a misurare uno che lavora se parla tra sé e sé? Gli infatti messo non si capisce. L'ho letto sul giornale, sarà vero, no? Cosa ti interessa? Uè, allora! Cosa? Chi se ne frega di Toronto! Toronto! E dei matti che parlano da soli! Vabbè, stiamo parlando di te. Qui c'è un caso gravissimo di insolvenza da parte di Gildo nei miei confronti. Nei confronti! nei miei confronti. Vabbè, ma sono ancora i 50 euro dell'altra volta? Purtroppo sì. Gildo fa lo scemo? Questo fa di tutto per non ridarmi 50 euro. 50 euro? Eh sì, 50 euro. Però scusa, hai un amico immaginario e ci passi tutto il tempo a parlare di soldi. Ma dai, ma inventatevi qualche avventura fantastica nella giungla, nello spazio, nel deserto. Dai, siete bambini, uno vero, l'altro immaginario. Però vabbè, non infognatevi a parlare di 50 euro come degli stupidi adulti, ma basta. No, ho capito. Se a te ti fregano 50 euro, cioè, non combatti almeno un po' per farteli ridare? Sì, però Drago ha ragione stavolta. Dai, non si parla di soldi con gli amichetti. Infatti. Dai, tu i soldi poi non dovresti nemmeno sapere cosa sono. Altro che 50 euro. Poi chi te li ha dati a te 50 euro? Ma perché mi avete preso? I soldi sono l'unica cosa che conta nel mondo. Ma cosa dici? E volete che io non sappia nemmeno cosa sono? Ma loro siete proprio dei baluba, Vabbè, andiamo, dai. Qui ormai tocca sempre andarcene con Alberto. Capito, Gildo? Questi qui ci prendono per i scemi. Invece i scemi sono loro. Eh sì, però se alla fine di tutta la maradan tu non mi ridai 50 euro, allora la figura dello scemo la faccio io. È un cazzo. Cioè, me li dai i nostri 50 euro? Io sono immaginario. Tu sarai anche immaginario, ma i miei 50 euro cosa sono? Sono finiti. Tu che sei stato sempre mio amico, sempre al mio fianco, sempre vicino. Ora che sei al fianco di un altro bambino, stai a sentire ciò che ti dico. Spero proprio che tu ti ritrovi in un bel banco di spine di rovi, sempre più stupido, sempre più stanco, con un orango compagno di banco, con 546 denti, tutti cariati, tutti ridenti, che tutto il giorno ti vuole baciare, con una puzza terribile in bocca. E se mi chiedi se puoi ritornare, io ti presento questa filastrocca, che ora finisce, dicendo così: te ne sei andato? Ora stai lì. Oh, è finita, adesso weekend. Mi sembri scemo, ma te come? Ne dimentichi sempre. Ma di cosa? Del predicozzo di Suor Dentona. No. Dai, comincia. Cari bambini, oggi intendiamo parlarvi di un valore che permea di sé tutta la vostra vita qui all'asilo infantile. E l'amicizia. Chissà che pippolotto ci fa adesso. Stai zitto, non voglio grane, stavolta. La vera palestra nella quale si esperimentano i veri amici è il dolore. Nel tempo lieto noi potremmo essere circondati da gente che fa profferte di amicizia per sfruttarci e per ottenere i nostri favori. Sì, ma è malfidata però, Suor Dentona. Solo nel dolore si provano i veri amici. Accanto all'uomo addolorato, colpito da una sciagura, resta solo l'amico vero e sincero. Aia! Aia, che male! Aia. Tranquillo, Drago, ci sono io accanto a te. E quindi? E quindi io sono un tuo vero amico. Il dolore fuga i falsi amici, ma stringe e affratella più cordialmente gli amici veri. Aia! Aia! Tranquillo, io ci sono. Io ci sono. Cari bambini, Suor Dentona ha finito. Potete andare in pace. No, meno male. Meno male, lo dico io, se però. Aia! Aia! Aia! Ma basta! Aia! Oh, io ci sono, Drago. Vabbè. Lunedì. Ma prima salutiamo e ringraziamo i bambini Lucia Gadolini, Alberto Caserini e Guido Bertolotti. Oltre che la bambina Margherita Ina e il bambino Carmelo Lauricella di Radio 24. Scriveteci a chiedoasilo@radio24.it. Yeah!